Mix 24, i gialli della storia. Non importa che cosa facciamo, importa con quanto amore lo facciamo. Per questo bisogna pregare, perché il frutto della preghiera è l'amore, il frutto dell'amore è la gioia, il frutto della gioia è la pace. Presero la medaglia e con questa fecero il segno della croce sul mio addome. Poi la premettero contro il mio tumore, così. Il mattino dopo, quando mi svegliai, mi sentivo bene. Il gonfiore sulla pancia era sparito. Per Madre Teresa era importante che nessuna persona morisse senza aver gustato la dignità di essere una persona. E il simbolo di questo rispetto era un sorriso. La ritroviamo sempre con persone come Nancy Reagan, la principessa Diana, Charles Keating. O la famiglia Duvalier in Haiti, gente che in realtà vive sulle spalle dei poveri e li sfrutta. E da queste persone prendeva soldi per predicare la povertà ai poveri. Quando si fa del bene, il denaro, specialmente in mano a santi, si redime, si riscatta. Credo che la madre sia stata aiutata molto dai media. E questa copertura mediatica contribuì a rendere il suo lavoro conosciuto in tutto il mondo. Mi piaceva molto la sua trasparenza. Diceva quello che pensava e faceva quello che diceva. È una piccola suora che ha segnato il mondo, quella che raccontiamo oggi a Mix 24. Madre Teresa di Calcutta, che il 19 ottobre 2003 è stata beatificata da Giovanni Paolo II. Un processo di beatificazione rapidissimo, voluto espressamente dal pontefice. Madre Teresa, scomparsa il 5 settembre del 97, è stata un apostolo di povertà. Premio Nobel per la pace, fondatrice dell'Ordine delle Missionarie della Carità, con case d'accoglienza in tutto il mondo. Eppure Madre Teresa è stata anche un personaggio mediatico, al centro di controversie e di polemiche. Per raccontare la sua storia bisogna arrivare alla sua India. Quell'India dove questa piccola, grande persona ha cercato fino all'ultimo di regalare un sorriso agli ultimi del mondo. È stato Enzo Carra a percorrere la strada fino a Calcutta per raccogliere le testimonianze di chi gli è stato vicino e vedere i luoghi dove tutto è cominciato. La prima tappa del nostro viaggio è Nagore, a 700 km da Calcutta, nella regione del Bengala. È il villaggio dove vive Monica Besra. Monica deve la sua vita a Madre Teresa. Grazie alla madre è stata miracolosamente guarita da un tumore allo stomaco. Il miracolo è avvenuto il giorno del primo anniversario della morte della madre. Noi le abbiamo chiesto di raccontarlo. La mia malattia è cominciata con mal di testa e febbre. Pensavo di avere l'influenza e per stare meglio presi alcune pastiglie per la febbre. Continuai per un po' con queste medicine, ma non miglioravo. Poi smisi di prenderle perché non avevo i soldi per continuare. La mia condizione si aggravò e alla fine la gente del villaggio disse a mio marito di portarmi da un buon dottore. Lei sta veramente male, dissero a mio marito. Monica ci racconta che il dottore che la visita non è in grado di fare una diagnosi e che le chiede di fare delle lastre, ma lei e suo marito non hanno i soldi per pagare le analisi. Da quel momento comincia la sua odissea. Monica viene condotta in vari ospedali, sempre più lontani e sempre più costosi. La pancia intanto comincia a gonfiarsi. All'inizio le dicono che è incinta, poi finalmente, dopo cure insufficienti e sbagliate, le diagnosticano un tumore. La rimandano al suo villaggio, dove viene presa in cura dalle missionarie di Madre Teresa. La mattina del 5 settembre tutti andarono in chiesa tranne me, che non riuscivo a camminare. Anch'io volevo andare in chiesa perché ero l'unica che era rimasta a casa. Ci arrivai per ultima, camminando lentamente, assistita da due persone, ed entrai dentro. Su un altare in basso c'era una foto di Madre Teresa nel suo letto di morte. La guardai e vidi una luce venire verso di me da quella foto. Chiusi gli occhi e il mio cuore cominciò a battere forte. fui riportata indietro e poi andai a dormire. Verso le 5 vennero da me due suore. Io stavo a letto e dissi loro che non mi sentivo bene. Oggi è un giorno speciale, mi risposero. È l'anniversario della morte di Madre Teresa. Ti daremo una medaglia benedetta dalla madre. Presero la medaglia e con questa fecero il segno della croce sul mio addome. Poi la premettero contro il mio tumore, così. Il mattino dopo, quando mi svegliai, mi sentivo bene. Il gonfiore sulla pancia era sparito. Svegliai la ragazza che dormiva nel letto vicino al mio, si chiamava Semira. Semira, svegliati, gridai. Mi sento molto meglio, il gonfiore del tumore è sparito. Sono anche andata due volte al bagno da sola. Lei si alzò e toccò il mio addome con le mani. Non c'era più niente. La guarigione miracolosa di Monica Besdra, attribuita all'intercessione di Madre Teresa, è il fondamento del processo di beatificazione. Ma per chi vive in India, la santità di Madre Teresa era già una granitica evidenza, un dato scontato, una fede. A Calcutta, la sua fama di santità non si fonda sui tanti miracoli che le sono stati attribuiti, ma sul miracolo quotidiano delle sue suore e dei suoi volontari, che assistono i poveri, i malati, i morenti. Nel dicembre del 95 incontrammo la madre dopo aver assistito con lei, le sue suore e le sue novizie alla messa delle 6, con la quale iniziava la giornata di lavoro. Anche a noi Madre Teresa propose un piccolo lavoro, una visita alle sue opere di Calcutta, le prime da lei realizzate, per le quali ci dette una isperata autorizzazione. Prendam, la casa dei malati di mente e degli anziani, raccoglie centinaia di donne e di uomini, malnutriti, tubercolotici, malati di mente o semplicemente vecchi. Le volontarie di ogni nazionalità, che dedicano parte della loro vita alla missione di Madre Teresa, accudiscono le donne, le pettinano. Ma questo è il lato più lieve del loro impegno. Li lavano, li curano, li accarezzano, li scuotono, li tengono in vita. Nel 1950 Madre Teresa fonda la Congregazione delle Missionarie della Carità con l'intenzione di prendersi cura dei più poveri dei poveri, cioè tutti quelli che sono considerati un peso per la società e che sono sfuggiti da tutti. Nel 1952 Madre Teresa prende in affitto uno spazio a fianco del tempio dedicato alla Dea Kali e ne fa un ospizio. Le persone portate lì vengono assistite e curate e hanno la possibilità di seguire i riti della propria religione, come ci racconta il cardinale Pio Laghi. Lei lo aprì nel 1952 per portare dalla strada, dai marciapiedi, coloro che moribondi, in fin di vita o bisognosi di assistenza, e allora riuscì ad avere questo grande, direi, magazzino che si trova proprio nelle adiacenze del tempio della Dea Kali, la dea della distruzione e della morte, e lì mise in distinte reparti uomini e donne, giovani, anziani, di qualsiasi credo, cioè potevano essere musulmani, indù, cristiani, cattolici, tutti in un momento tragico della loro vita. Su un muro di Shishubhavan, la casa per i bambini, era scritto: l'uomo irragionevole, illogico, egocentrico, non importa, amalo. Se fai il bene ti attribuiranno secondi fini egoistici, non importa, fai il bene. Se realizzi i tuoi obiettivi troverai tanti amici e veri nemici, non importa, realizzali. Il bene che fai verrà domani dimenticato, non importa, fai il bene. L'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile, non importa, sii franco e onesto. Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo, non importa, costruisci. Se aiuti la gente se ne risentirà, non importa, aiutala. Da al mondo il meglio di te e ti prenderanno a calci, non importa, da il meglio di te. Bentornati all'ascolto di Mix 24. Oggi stiamo raccontando di Madre Teresa, della sua missione di aiutare i più poveri e i più bisognosi. Ascoltiamo a questo proposito Orazio Petrosillo, vaticanista del Messaggero. Madre Teresa amava raccontare un po' spiritosamente quale sarebbe stato il suo ingresso in paradiso, e lei immaginava sorridendo che sarebbe stata rimproverata da San Pietro. Dice: Madre Teresa, avrebbe detto San Pietro, ma lei ci sta riempiendo il paradiso di poveri. E lei diceva: sono circa 50.000 i morti che sono morti con il biglietto di San Pietro. E che cos'era questo biglietto di San Pietro? Era un sorriso. Per Madre Teresa era importante che nessuna persona morisse senza aver gustato la dignità di essere una persona. E il simbolo di questo rispetto era un sorriso. Dare a un moribondo, scansato, buttato lì, e quando noi siamo andati con il Papa in India c'era una cosa che faceva stringere il cuore: 300.000 persone sulla strada, cioè che non avevano niente. Io sono stato testimone di quell'incontro. Fu un giorno, era il 3 febbraio 1986, un giorno e un'esperienza che non dimenticherò mai, perché il Papa andò a Calcutta e visitò la casa dal cuore puro. Il Papa entrò in questi stanzoni, mano nella mano di Madre Teresa, e volle imboccare alcuni malati, però poi le suore non glielo permisero e lui si limitò a sorreggere il vassoio. Poi fuori baciò Madre Teresa, era così piccola, rannicchiata, che il Papa spesso la baciava sulla testa, sul velo, con questo sari bianco, e fu per il Papa, io credo, una esperienza di inferno e di paradiso. A Calcutta la sporcizia, la miseria del mondo, la fame e la povertà sembrano convocati per un raduno gigantesco e inesorabile, drammatico e simbolico. Qui non c'è guerra, ma la vita e la morte combattono una contro l'altra, in campo aperto, momento per momento, clamorosamente, con una forza che non si avverte in nessun'altra parte del mondo. Calcutta è un antico ring biblico. Qui Madre Teresa ha vissuto dal 1929 fino al giorno della sua morte. Nata a Skopje, nell'attuale Macedonia, a 18 anni riceve la chiamata di Dio ed entra nella congregazione delle suore di Loreto, in Irlanda. Un anno dopo, giunta a Calcutta, comincia a insegnare in una scuola per occidentali, per gente agiata, separata dal resto della città da un muro che impediva alla miseria di entrare nella scuola. Questa suora era contenta di fare la sua professione, la sua missione di insegnante di inglese, solo che un bel giorno, era il 10 settembre del 1946, Madre Teresa riceve un'ispirazione. Viaggiava in treno verso Darjeeling, una località ai piedi dell'Himalaya, e ha questa ispirazione: servire Cristo, servire l'India tra i più poveri dei poveri. Ecco, questa data, 10 settembre 1946, resta centrale nella vita. È la seconda vocazione, quella che Madre Teresa chiama la chiamata nella chiamata, ed è così importante che i suoi figli e figlie spirituali celebrano questo giorno, il 10 settembre. L'amore per i più poveri tra i poveri, la dedizione totale agli umili e ai moribondi, la straordinaria e instancabile capacità di diffondere la missione della carità hanno fatto di Madre Teresa il prototipo di una santità moderna, un modello da imitare e da venerare, che l'ha resa famosa in tutto il mondo. Nel corso della sua vita, la suora di Calcutta ha ricevuto innumerevoli premi e riconoscimenti. È stata invitata a parlare all'Assemblea delle Nazioni Unite e nel 1979 le fu conferito il premio Nobel per la pace. Io mi ricordo che quando Madre Teresa entrò nella grande aula del Palazzo di Vetro all'ONU, l'allora segretario generale Pérez de Cuellar la presentò come: ecco, vi presento la donna più potente della Terra. Ecco, e Madre Teresa fu allora che disse: io sono soltanto una matita nelle mani di Dio, sono soltanto una donna che prega, e pregando il Signore chiedo che mi metta l'amore per poter amare i poveri. Ma i pensieri e le azioni della suora di Calcutta hanno ricevuto anche critiche velenose. Un giornalista inglese, Christopher Hitchens, ne ha scritto un libro e realizzato un documentario in cui accusa Madre Teresa di aver frequentato benefattori poco raccomandabili e di essere una fondamentalista religiosa, e poi ancora il cardinale Pio Laghi. Lei diceva di essere amica dei poveri, in realtà era amica della povertà. Credeva nella povertà, le piaceva, insegnava alle persone ad accettarla, a ritenerla un dono, e contribuiva a diffonderla, perché si opponeva all'unica cosa che uccide la povertà, e cioè l'emancipazione femminile nei paesi poveri. Se concedi alle donne il controllo sulla propria fertilità, ne innalzi immediatamente lo standard di vita. Ha trascorso la sua vita ad opporsi all'unica politica che può ridurre la povertà. È vero, Madre Teresa ha interpretato in modo superbo un cattolicesimo ispirato ai valori più tradizionali. Ha combattuto contro l'aborto come strumento di contraccezione, ma anche per questo è stata compresa dai fedeli ed è diventata così popolare. Madre Teresa è stata malata nell'ultima parte della sua vita. E ogni volta che stava male saliva su un aereo e veniva a farsi curare qui, negli Stati Uniti, in una clinica privata in California. Buon per lei, niente in contrario, ma di certo non sarebbe potuta andare in una delle sue cliniche, perché in queste gli standard di trattamento sono semplicemente inesistenti. Queste cliniche sono solo degli ospizi dove le persone possono andare a morire, morire preferibilmente dopo essersi convertiti al cattolicesimo romano. Con i soldi che lei ha avuto dal premio Nobel, dalla famiglia Duvalier e da tanta altra gente più sincera della famiglia Duvalier, non abbiamo mai saputo quanti soldi ha ricevuto perché non ha mai reso pubblica la sua contabilità, ma sappiamo che era una fortuna. Con questi soldi avrebbe potuto costruire ospedali veri a Calcutta. Lei non ha mai fatto niente di tutto questo. Una delle prove contro Madre Teresa presentate da Hitchens è il suo rapporto con il dittatore haitiano Duvalier, più noto come Papa Doc. Un rapporto che Madre Teresa non ha mai smentito perché, secondo lei, non c'era niente da nascondere. La ritroviamo sempre con persone come Nancy Reagan, la principessa Diana, Charles Keating, ben noto negli ambienti finanziari statunitensi che le prestava il suo jet, o la famiglia Duvalier in Haiti, gente che in realtà vive sulle spalle dei poveri e li sfrutta. E da queste persone prendeva soldi per predicare la povertà ai poveri. Non era personalmente corrotta, non prendeva i soldi per sé o cose del genere. Ma le persone che le davano soldi in buona fede, convinti di regalare del cibo, medicine per i bisognosi, andavano incontro a una delusione. I soldi erano in realtà usati per costruire conventi in tutto il mondo in nome di Madre Teresa, più di 100. Erano usati per costruire monumenti al suo ego e alla sua interpretazione estremamente fanatica dell'insegnamento cattolico. Dicono, ma lei ha raccolto tanti soldi e perché non li ha messi in opere istituzionalizzate, come ha fatto il santo padre Pio da Pietrelcina, creando l'ospedale Sollievo della Sofferenza. Perché non ha aiutato di più i poveri a sollevarsi? Lei dice, primo, io non voglio istituzionalizzare il lavoro della carità, perché quello non si istituzionalizza, non ha margini. La carità è estensiva a tutti. Se io fondo un ospedale, d'accordo evidentemente con le autorità civili, di 100 letti, quando trovo altri 10-20 che hanno bisogno immediato di assistenza, dove li metto? Se non posso, se non trovo altri letti dentro. Quindi lei prende quelli che hanno bisogno. In secondo luogo dice, voi pretendevate che io dessi una canna da pescare, perché pescando e insegnando loro l'arte di pescare si mantengano meglio. Ma i miei poveri non hanno nemmeno la forza di sostenere una canna. Quindi io le aiuto, do a loro il pesce e voi cercate di fare opere sociali in maniera che cessi questa miseria nel mondo. Quando si fa del bene, il denaro, specialmente in mano a santi, si redime, si riscatta. Madre Teresa è morta il 5 settembre del 97. Alla notizia della morte, poi ai funerali di Stato voluti dal governo indiano, 2 milioni di persone si sono riversate nelle strade di Calcutta per l'estremo saluto a questa donna fragile, ma nello stesso tempo forte come una roccia nella pietà e nella carità. Ascoltiamo la testimonianza dell'arcivescovo di Calcutta e ancora il vaticanista Orazio Petrosillo. Madre Teresa, in qualche modo, capì la grande sfida della povertà e il bisogno di rispondere a quella povertà che c'era. Ed ebbe a Calcutta un impatto drammatico con la povertà, perché dopo la partecipazione dell'India alla guerra in Bangladesh, la miseria nella città di Calcutta era vastissima. Lei provò a governare quella povertà e mentre andava avanti, provando a governare quella povertà, provando nel suo piccolo ad aiutare le persone, capì che non sarebbe riuscita a fare grandi cose, ma che nelle piccole cose che faceva riusciva a compiere la propria missione. Una volta disse: io un lebbroso non lo toccherei neanche per 1 milione, possiamo dire chissà per 1 miliardo, però per Gesù lo faccio. Ecco. E difatti un'altra battuta, perché poi Madre Teresa amava anche dire in maniera molto semplice, da maestra, le cose della vita spirituale. E lei aveva coniato questo Vangelo delle 5 dita. Dice: tutto si riduce a una domanda che io mi pongo al mattino. Ecco, la mano ha 5 dita. Ecco, la domanda è: cosa farò oggi per Gesù? La lezione e l'esempio di Madre Teresa continuano a vivere oggi nella pratica quotidiana di più di 4.000 suore della sua congregazione e delle oltre 600 case sparse in 123 paesi del mondo. Ma Madre Teresa e la sua missione sono stati anche un fenomeno mediatico enorme, con decine di giornalisti e fotografi da tutto il mondo che la seguivano e volevano immortalarla. Ray rispondeva così: ho fatto un contratto con il buon Signore. Per ogni foto che mi scattate, un'anima andrà in paradiso. Oggi il purgatorio si è svuotato. Credo che la madre sia stata aiutata molto dai media, soprattutto quando Malcolm Muggeridge è venuto a trovarla e ha scritto Something Beautiful for God. E questa copertura mediatica contribuì a rendere il suo lavoro conosciuto in tutto il mondo. Per questo la madre ricevette molto più aiuto di quanto si potesse prevedere. In questo si può intravedere il disegno divino dietro il suo lavoro per i poveri. Il processo di beatificazione di Madre Teresa è stato il più veloce della storia della Chiesa. È la prima volta dal 500 a oggi che la Santa Sede proclama un beato a soli 6 anni dalla morte. Ma come è stato possibile? Sentiamo i prelati che hanno seguito per il Vaticano il processo di beatificazione e poi ancora il giornalista Christopher Richards. Il 98, il 12 dicembre, il Papa ha dato una dispensa alla norma di aspettare 5 anni prima di cominciare un processo. Quindi abbiamo fatto i passi preliminari fino a luglio 99 e 26 luglio abbiamo cominciato lì a Calcutta la inchiesta diocesana. Abbiamo ricevuto lì in Calcutta e qui anche a Roma già più di 700 favori, possiamo dire, che le persone hanno scritto dicendo che hanno chiesto l'intercessione della madre e hanno ricevuto una risposta positiva. Fra questi, forse già 2 anni fa, c'erano forse 10-15 di questi che possibilmente era possibile investigare più se c'erano veramente miracoli. E di questi abbiamo scelto il caso di Monica Besra. Se vogliamo parlare della celerità con la quale la causa è andata avanti o il motivo per cui è andata abbastanza velocemente avanti, possiamo innanzitutto dire che sì, certo, c'era questa dispensa dalla tesi di 5 anni, perciò questa è stata la prima cosa che ha accelerato la causa in maniera naturale. Però occorre osservare e dire chiaramente che dal momento in cui la causa ha avuto la dispensa dai 5 anni, ha seguito l'iter procedurale normale per qualsiasi causa di beatificazione e canonizzazione. La seconda cosa che ha poi accelerato la causa era il fatto che quando ci sono certe cause che hanno una importanza universale, mondiale, non sembra tanto giusto che quella causa vada sull'elenco e risulti al 367° posto su questo elenco di attesa. Perciò c'è stato un certo privilegio alla causa di Madre Teresa proprio per questo fatto che accade anche in altri casi. E il terzo, diciamo, motivo per cui la causa di Madre Teresa ha avuto una certa, diciamo, precedenza era proprio il fatto che sia le virtù sia il miracolo erano talmente fulminanti che la causa è potuto andare avanti senza difficoltà o senza inutili indugi, diciamo. Madre Teresa è importante testimone della carità del Vangelo nella vita concreta. Madre Teresa non ha preteso giudicare le strutture economiche e nemmeno fare proclami di natura politica. Da un certo punto di vista questa è stata la grande azione del Papa, il Papa che non solo, mentre nei primi 10 anni di pontificato ha soprattutto combattuto il comunismo, negli altri anni del suo pontificato ha soprattutto condannato il mondo capitalista oppressivo, cioè mentre prima ha rotto il muro est-ovest, adesso si è impegnato per colmare il fossato nord-sud. Quindi al Papa possiamo dire il magistero, a una donna come Madre Teresa la concretizzazione vivente del fatto che non ci deve essere un sud del mondo. Da una parte c'è questo grande Papa Giovanni Paolo II che veramente vede le cose nella prospettiva anche. E dall'altra parte questa madre che, come diceva Pasolini, quando vedeva guardava, quindi c'era questa intuizione nei suoi occhi. Abbiamo ancora in mente quegli occhi così perspicaci e così profondi che vedevano veramente la miseria del mondo e che cercavano di trovare una soluzione. Lei cercava di trovare una soluzione. Chi sono le persone buone? Chi cerca di vivere e di portare pace, unità e gioia? Tutto questo inizia dalla famiglia. Dio benedice le famiglie che sono unite, dove ci si ama l'un l'altro, come Dio ama tutti noi. Le famiglie che attraverso l'amore vivono nella pace, nella gioia e nell'unità. Certamente, se c'è una santa come Madre Teresa che meriti di essere subito considerata agli onori degli altari speditamente, senza il passaggio dalla fase della beatificazione, credo che sia lei. Anche le persone che erano contrarie alla santità di Madre Teresa o alla sua beatificazione sono state chiamate a deporre. 4 persone, cioè diciamo le persone più, diciamo, critiche nei riguardi di Madre Teresa, sono state chiamate a deporre. 3 su 4 hanno risposto e sono venuti a testimoniare nelle diocesi locali. Il Vaticano mi ha contattato e io sono stato d'accordo a parlare con loro e ho detto le stesse cose a loro. Sono andato all'arcidiocesi a Washington e c'era un monsignore, un decano, un prete, una Bibbia, un registratore e un questionario da Roma. È un modulo standard che tutti i testimoni di una causa di beatificazione devono riempire. Ed è rigido, non puoi deviare. Era un questionario molto lungo. Loro semplicemente mi hanno sottoposto le domande del questionario e le domande davano poche possibilità a chi non era d'accordo con loro. But I was able to say that to the extent Tuttavia sono stato in grado di dire che nella misura in cui la Chiesa vuole convincere le persone che Madre Teresa combattesse la povertà e la malattia, io non sono d'accordo, per i motivi che vi ho detto. Ma non c'è stata discussione tra me e questi tre signori. Erano lì solo per assicurarsi che io compilassi questo modulo rigido. Il questionario cominciava, per esempio, con la domanda: che conoscenza ha della santità di Madre Teresa da bambina? Ecco, questa domanda ho dovuto saltare. Non lo so. E continua così in un modo molto meccanico. Infine, puoi dire se credi che fosse un ipocrita. E io ho risposto no, non credo che fosse un ipocrita. Credo che fosse una sincera fondamentalista. Ma non credo che per loro abbia fatto una grande differenza. Credo che mi abbiano consultato solo per poter dire che hanno ascoltato tutti. Il 15 marzo del 2016 Papa Francesco ha firmato il decreto per la canonizzazione di Madre Teresa, canonizzazione poi avvenuta il 4 settembre del 2016. Di lei ci rimane un ultimo regalo, la sua preghiera registrata poco prima di morire. Un cuore puro è un cuore che serve. Un cuore puro è libero di donare, di amare fino a provare dolore. Un cuore puro può vedere facilmente Cristo nella persona affamata, nella persona nuda, nel senza tetto, nei solitari, negli indesiderati, nella persona non amata, nel lebbroso, nell'alcolizzato, nell'uomo sdraiato per la strada, non amato, indesiderato, affamato. Non si tratta solo della fame di pane, c'è anche la fame d'amore. La nudità non vuol dire essere senza vestito, ma essere senza dignità umana. Essere senza tetto non significa solo non avere una casa dove vivere, ma vuol dire anche essere abbandonati da tutti, indesiderati. Non amati, trascurati. Aver dimenticato cos'è l'amore dell'uomo, cos'è la gioia umana, che cos'è il sentimento. What is human joy? What is human touch?